fatte di amore a colere. Quando non ci sei te, io mi amo di meno. Forse perché sei la mia amica, pure la mia metà. Siamo fatti per stare bene, non puoi pensare al cash o ad altre cazzate che non mi vengono in mente. Forse perché le abbandonate di già. Mi sono perso in un campo di fiori, mi hanno detto più volte sei fuori. Forse è vero che non stavo dentro a me stesso, ma a volte ti ignori. Io che volevo tanto star meglio in un quadro bianco con i miei colori. Quelli che poi mi ha tolto dicendo cose che forse è meglio mi scordi. Ridiamo a volte perché star sad non promette niente. Lo faccio ancora per nascondermi dalla gente, a cui non le frega di sta mia anima. Oh, oh, oh, oh, oh. Ciao, torneremo